Questo è lo spirito del mercoledì. Cioè, lo scavallamento, com'era? Non mi ricordo niente. Il coccodrillo. Il guado del mercoledì. Lo squalo? Perché lo squalo? C'è stato sia il cavallo che il coccodrillo. Cavallo morto. Il cavallo morto. Morto, sì. Nel mercoledì. Quello su cui scommettere. Continuamente. Vabbè, quindi il mercoledì annuncia che cosa? Cosa molto interessante. Oggi parleremo di bambini stressati, parleremo degli scout. Vogliamo cominciare o no? Insisti su queste note basse. Non sono commerciali, capito? Note basse fanno scappare la gente. Hanno sempre saputo tutti, capito? Usano sempre note alte. Fumetti alla radio. Dobbiamo ricordarlo, sennò la gente non si ricorda che abbiamo fatto i fumetti, che però sono legati alla trasmissione radio, ma si possono vedere solo su internet, perché sono dei fumetti interattivi, non sono interattivi, ma sono audio multimediali. Vabbè, li trovate sul canale YouTube di Barlume, li trovate sulla pagina Facebook di Chiedo Asilo e forse da qualche parte anche sul sito di Radio 24, proprio quello radio24.it. È lì, bisogna vedere cos'è uscito. Basta, dai. Fumetti alla radio. A Stoccarda è nata la prima scuola materna per bambini stressati. Ma bentornati, non lo diciamo. Ah sì, non l'abbiamo già detto, no? Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Cos'è questo? Non è questo, il lupo del martedì, no, oggi siamo mercoledì. È Mishka, Mishka, il cane parlante di internet. Sì. Che dice I love you, fa così. Allora, K vi ama, Mishka anche. Allora, io direi che possiamo trasferire direttamente K, sì, in questa scuola materna di Stoccarda per bambini stressati. No, ma è stata aperta. Mandiamoci il bambino Alberto. Diciamo che è riservata ai bambini di Stoccarda. Bambino Alberto dovrebbe avere del posto di onore. Vabbè, ma il bambino Alberto non è stressato in realtà, è solo un bastian contrario. Lui cosa sta vuol benissimo. Dire, poi, scusa, scuola materna per bambini stressati. Allora, sono tutti figli di genitori in crisi per la crisi. La crisi del settimo anno. Ma magari, la crisi quella vera, quella nera. La crisi, anzi. La crisi. Cioè, vuoi dirmi la solita vecchia storia dei bambini di 3 anni che sentono lo stress dei genitori, si stressano a loro volta. Certo, e quindi... però vedi che i tedeschi sono avanti. Loro, tac, hanno aperto subito l'asilo speciale dove i bambini stressati si rilassano con massaggi, pediluvi. Come e poi pediluvi? Camminano a piedi nudi nell'erba bagnata. Vabbè, scusa, Draco, ma allora chiediamo il trasferimento a Stoccarda. Prossima stagione. A Stoccarda. Chiedo asilo in Stoccarda. Sì, però il problema è che noi non siamo stressati. Questa è molto divertente. Altro che tipo a mia insaputa. Questa fa ridere. Noi non siamo stressati. No, questa fa riderissimo. Pop goes a weasel. Pop pop pop goes a weasel. Pop pop pop goes a weasel. Pop goes a weasel. Veniamo giù dai monti del Tirolo. Questo è lo hacker, no, del Wunderwaffer. Non sono gli scout. No, gli scout cantano altre canzoni, che sono quelle che il capo scout sta insegnando al bambino Alberto. Sì, adesso c'è polemica con gli scout, perché la Jeci... No, le canzoni, la notizia puoi dirla. E la Jeci, allora, dico anche piano, perché qui, l'associazione guide scout cattolici italiani ha fatto polemica con le associazioni gay, perché ha pubblicato degli atti di un seminario organizzato dagli scout sull'omosessualità e ha scritto cose come i capi scout omosessuali non si devono dichiarare per non turbare i ragazzi e nel caso di giovani scout gay si sconsiglia il coming out, meglio consultare uno psicologo. Il coming scout nemmeno. Però Drago, lascia perdere ste polemiche. Perché? No, ma lascia che se la vedano tra di loro, no? Tra di loro chi? Ma scout gay, no? Ma scusa capo, tu sei scout? No. Sei gay? No. E allora vedi che meglio che lasci perdere. Ma no, ma si tratta, scusa, di una dichiarazione inaccettabile. Perché? Poi di un'ipocrisia incredibile. I gay sono dappertutto. Ma lascia stare, guarda che poi ci perdi comunque, sia se difendi gli scout che se difendi i gay. Quindi, dici, scusa. Poi credono che siamo gay. Vabbè. O credono che siamo scout. Vabbè, allora no. E ora, bambini, ricreazione. E Dio, e noi, e lui. Come lo fa noi? le mani, poi tra l'altro le sue pensiero stupendo, aia, nasce un poco strisciando, aia, si dovrebbe parlare di bisogno d'amore. Ma che bisogno d'amore? Ma qui c'è la riunione degli scout, quella universale, qui siamo noi due. E poi questo lui qui, chi è? Ciao Alberto, allora. E allora? Cioè, allora non ho capito niente, lei ha cantato la canzone, siamo qua in due. Doveva esserci la riunione di tutti gli scout, tutte le compagnie, la roba universale. E cosa facciamo noi due davanti a un falò? Alberto, noi facciamo dei pensieri stupendi. Ma che pensieri stupendi? Io tra l'altro ho anche fame, quindi non riesco neanche a pensare. Alberto, senti caldo, devo alzare un po' il fuoco. No, basta così, c'è un caldo terrificante, siamo qua, perché devo stare così vicino? Togliti quel maglioncino lì che ti fa solo pesante, togliti quel maglioncino lì. No, mamma, di sera non posso toglierlo. Stai sudando, Alberto, ti vedo sudare. No, non sto sudando, poi sto bene così. Cioè, lei mi spieghi prima di tutto cosa siamo qua a fare? Gli altri arrivano? Cioè, siamo in anticipo, gli altri devono arrivare? E gli altri prima o poi vedrai che arriveranno, Vedrai che arriveranno. Ho capito, perché... qua sono già le 9 di sera. Io ho fame, c'è il falò, ho anche caldo. Cioè... lascia stare, appunto, già vedi che abbiamo raggiunto la situazione ideale, io e te da soli, il fuoco tra noi a fare dei pensieri stupendi, e adesso c'è più anche caldo. Poi dopo, se vuoi mangiare, ti spiego tutte le astuzie del trapper, che quelle sono proprio però te le spiego dopo. Adesso ma che siamo qui, poi scusami, questa roba qua di pensieri stupendi che dovremmo fare, io non ho mica capito cosa vuol dire. Io qui c'ho i bisogni primari, io non è che faccio i pensieri, ho fame, ho caldo. Guarda, Alberto, ma te, scusami, hai mai letto Freud? Chi? No. Freud. No, io no. Vabbè, c'è tutto un capitolo destinato proprio a spiegare questa situazione, È una graphic novel, è un fumetto. No, qui si tratta di ontogenesi, filogenesi, qui si parla proprio della variabile che determina l'essere umano, un cambiamento. Allora, questi presi in giro ci sono già abituato con altre persone, Qui non mi prende in giro quei paroloni che poi non significano niente. Parliamo terra a terra, qui c'è il falò, siamo noi due. Gli altri non arrivano, io ho fame. Ho caldo. Alberto, ma io sono qui per saziare la tua fame. Sono qui perché il mio compito è proprio quello di farti sentire a tuo agio, di creare la situazione perfetta. Alberto, ma te lo sei portato lo stracchiotto? Ma quello stracchiotto, lei piuttosto ha portato i sandwich. Almeno un tramezzino, ha detto che lei si occupa di sfamarmi. Mi sfami, no? Alberto, poi dopo c'ho qui due ciabatte che poi te le do dopo, te le preparo, però adesso non ti preoccupare, c'è sempre da mangiare. Le ciabatte e il pane? Le ciabatte io ho le mie scarpe, ho la mia roba, non ho bisogno di niente, le ciabatte, no? Le ciabatte per cosa? Poi queste robe intime, ognuno ha le sue ciabatte, no? Certo, ma qui si condivide, ci si scambiano le ciabatte. Certo, Alberto, guarda, l'hai mai provata la camicia, quella del capo, la camicia del capo, quella proprio con sopra i mostrini, con tutti i distintivi più importanti, te la presto, ma la trovo, te la do. Ma no, io non la voglio, io c'ho la roba mia, poi non mi va bene. Poi non c'ho, io poi qua che non sono il capo, io sono qua uno che è venuto qua per fare lo scout, previo pagamento, anticipato. E stasera ci deve esserci la festa degli scout. Aspetta, ma scusa un attimo, fammi parlare. Ma l'IBAN, l'hai segnato, hai fatto il bonifico giusto? Guarda, no, perché non vorrei mica che hai fatto una roba, che hai sbagliato il numero, che lì sono tante cifre, poi te sei un bambino, io te le ripeto tutte una per una, se vuoi. Ma chi? Ibra, qui, Ibra, allora, Ibra intanto... Allora, cosa c'entra? Lascia stare, va. Allora, il bonifico? Quella roba lì si parla di soldi, si parla di euro, sono i miei genitori, tutto è stato pagato. Alberto, ma guarda che in altre parti del mondo questo servizio che io ti offro viene sempre retribuito, non pensare, quindi è proprio una cosa, anzi io qui retribuito per farti sentire a tuo agio. Lei è retribuito per questo corso di scout, no? Di avventura, adventure, che imparare le liane, cioè saltare i fossi, no? E la tenda di notte, tutte queste robe qua di avventura. E io ho pagato per questo, il Deplian diceva. Allora, c'è scritto ta ta ta ta. Qui invece siamo qua noi due. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Vabbè, siamo al bosco delle Toscana, dove? Alberi infiniti, quando tu sei vicino a me. Questo soffitto viola. Ma se siamo le Toscane, non esiste più. E com'era? Sembra un oceano in mezzo. Ma perché c'è anche Valle Canoe? Ero stiamo. Alberto, ma ascolta la poesia, senti le parole, senti che bello, no? Senti la profondità, no? È tutta per me. Io ti sto facendo questa cosa per te. Ma che c'è? Le zanzare, qui c'è una fogna vicino, eh? Siamo dello scalo. Non lo so. E chi è? È l'amministratore di Wunderwaffe. No, aspetta. No, aspetta. Pronto? Sì. No, la canzoncina, sì. No, ma era Drago, voleva cantare quel sì, sì, lo so che non si può fare. Sì, no, perché Wunderwaffer. Ma perché credevo fosse una canzone scout, capisci? Scout. Non ci credo. No. Va bene, lo dico a Drago. Sì, gli è qua vicino, ma glielo dico io. Non si preoccupi, glielo dico io. Va bene. Grazie. Sei licenziato.